ero a carica. Comunque, ieri stavi dicendo, c'era una portantina ieri sera. Caffa, stavamo parlando io e doppio room, c'era una portantina, poi ci siamo spostati di 459 canali e questo non ce l'ha fatta a seguirci. Comunque c'è anche Tina ruota. No, dovevi tranquillizzarti, ero io che stavo provando un microfono. Dovevi dire a Gianni, già mi ha detto, è così, portantina, vabbè, Fabio, tagli di 800 MHz e noi ci siamo spostati e finita la portante. No, sapevamo mica che di turno, potevi darci un segno. Lo so, infatti hai detto che si è messa la portantina e a un certo punto non vi... Vabbè, oh ragazzi, ciao Antonè, ci sentiamo, dai. Ciao, ci sentiamo, buonanotte, buon tutto. Avanti, Riccardi. Perché sono un farà. Ciao, buonanotte, ciao a tutti. All'ascolto. Lo so, sono basso, quindi non mi ascolti. No, ho acceso adesso. Ciao Ricca, ciao. Dai, ci sentiamo alla prossima. Vado in carica perché sono mezzo distrutto. Sì, no, sta a posto. Cos'è fatto? Sta a posto. Ti ascolto in mezzo al QRM oggi, credimi. Cioè il QRM è appena più alto di te e faccio fatica ad ascoltarti. Guarda che la radio un po' così magari senti un po' più forte. Tutto a posto, ti dicevo, tutto ok? Sì, ma è di che? Non c'è problema. No, perché mi capito. Mi piace la tranquillità. Oh, Antonè, cosa ha detto? Non lo ascolto. Spero, lo stavo seguendo. Perché mi ha scritto una tipa, mi ha scritto, capito? Mi manda i cuoricini, mi ha detto manda soldini caro. E io ho giocato, stai fresca. Ti voglio inculare, scusando la frase. Dimmi cosa ha detto Fabio, che non ascolto. Aspetti Fabio, cosa ha detto? Cosa hai detto? Se era tutto a posto, in tranquillità, capito? Che mi piacciono le cose tranquille, se insomma, se è a posto, se è tutto ok. Ha detto se sei tutto a posto, in tranquillità, se sei tutto quanto ok. Ti stai mangiando le parole anche tu. Sei tutto a posto? Sei tutto ok. Sì, tranquilli, figurati, no, sono un po' stanco oggi, dai. E niente, voglio andare a fare un po' di carica, perché sennò domani è dura. Dai, allora, salutoni, fagli di tu, Antonio, visto che sono coperto al QRM, buona carica, buon tutto, eccetera. No, adesso ti ho ascoltato, non c'è problema. Va bene, dai, sistemati, Facca, aumenta, metti un stile in più, qualcosina per arrivare qua da queste parti, che sei, guarda, credimi, dai 3 ai 5, però se aumenta il QRM non riesco ad ascoltarti assolutamente. Dai. Capa, sì, sta arrivando l'antenna, la mettiamo sul tetto e mi ascolti con un antennino sulla ringhiera, dalla parte opposta di casa tua, che tutti i palazzi tra me, te, capito? Mi stai ascoltando di rimbalzo in pratica. E vai, non... già va bene, dai. Se ti serve una mano chiama, non c'è problema, eh. Master, se posso sapere che antenna è? Quando arriva e alla fine saremo in 20 sul tetto, mi voglio proprio divertire, ci portiamo la cosa da bere. Veglia, d'accordo. Raga, vi saluto. Ciao, risponde a Riccardino che ti ha chiesto che antenna stai ordinando. Ciao. Riccardino, una 5 ottavi, una Venom. Ah, ho capito, sì, la Venom. Ma quanti metri è? Perché è tipo... Ciao. Posso perché... Come sentite, dai, ciao. Tarda, è un bel alta, è di 8 metri e secondo me in un palazzo non ci sta. Quella è forse più bassa. Capa, è più bassa, sono 5,85 metri di antenna. Tiene abbastanza bene il vento e pesa poco, pesa 2,5 kg. A me serve un'antenna molto leggera perché non posso supportarla in qualche modo, non posso alzarla, cioè se è pesante non la posso alzare più di tanto, non mi basterebbe i tiranti e quando c'è vento si incanala nei palazzi che sono in un certo punto della mia via e a casa mia il vento a momenti è un imbuto, capito, ma c'è un bel alto. Se arriva un'antenna leggera, addirittura pensavo lo pensavo all'inizio, però poi ho visto questo freno, 2,5 chili, neanche 6 metri, l'approviamo. Eia, perché così ti faccio vedere anche un buon apparato che ho trovato e così fai una buona combo. Cappa, dov'è il trovato? Non hai paura di Cappa? No, è un annuncio, è un amico. Ah, Cappa. Tutto da valutare, dai, da vedere. Sicuramente è inutile cambiare apparato se non metto l'antenna. Una volta che metterò l'antenna sentirai questi 4 watt in maniera diversa. Lo so, no, però quello è bello, mi hai detto che ti piace, adesso se Luca mi risponde, che gli ho chiesto il numero, che così se è di giorno ti chiamo, se no ti mando un messaggio domani. Scappa, ti chiami tu, prima manda un messaggio, scusa che ho il dito, ho la batteria a scaricare il microfono. Lo vediamo. Ti dicevo, tu prima manda messaggio e scrivi ciao, sono Riccardino, ok? Così io ti riconosco, ti metto memoria, perché a volte il telefono squilla squilla e se non capisco di chi è il numero non richiamo. Ah, ho capito, sì, ti mando un messaggio prima allora. Scappa. Ciao Riccardino, punto. Io vedo il numero, lo metto in memoria e appena riesco ti richiamo direttamente. Eia, va bene. Quanto poppa? Eia. Sono qua. Poi gli attimi modifici di numero di telefono di Paoletto Falcone, 23481, e ti fa squillare il telefono. La segreteria, ti amo. Aspetta, cosa ti amo? Aspetta così, aspetta. Se mi sbaglio ce l'ho, aspetta, te lo faccio sentire. Vediamo se... perché me l'hanno mandato l'altro giorno. Allora, sentimi. Chi era lui? Era Paolo Falcone originale. Papà l'ha conosciuto. Non sapesso niente qua. Già lo so, no, un giorno, come avrà detto a tutti, ha detto più volte che lo amava quando era andato a casa sua. Figurati, cosa ridere. Vabbè, anche a Fabio amava, sapeva questo a tutti, quando faceva il gioco della calzetta. Ho scoppiato Paoletto, ragazzi. Poveraccio, però è un caso umano. E di quando l'hanno schiumato? In piazza Marconi, fuori da Bugas. Cos'è che ti hanno fatto? L'avevano schiumato in piazza Marconi. Senti, Dio mio, ma poveraccio, dai. È una persona che ha dei problemi, che ha sempre avuto dei problemi, non è il caso di schiacciarlo così. Se si può giocare, lo prendi un po' in giro, ma fatti queste cose, cioè, da stupidi. L'ho sentito, Babbo gli spiaceva anche che qualche volta lo facevano piangere, è vero? Perché poi lui gli facevano gli scherzi, no? Gli davano le cose, gli se la prendeva. Qualche volta ci aveva orecchio e capiva addirittura da segnare, era importante, anche se c'era la voce contraffatta, cioè con intuito, riconosceva le persone anche quando si nascondevano bene. Qualche altra volta prendeva un sacco di cantonate, io, cioè, se la prendeva sempre con quel poveraccio di Danilo Snoopy e dava sempre sul telefono in frequenza. Ah, ho capito, sì, come ha detto anche Babbo l'ha conosciuto e gli ha detto sì, gli facevamo un sacco di scherzi, però so che non è, no, per dire, non è proprio sano, è qualche malattia a quanto ho capito. Il capa è un po' ritardato, ha un certo ritardo mentale, è per quello che da stupidi a canirsi, cioè se vuoi un po' giocarci, un po' lo fai ridere, magari un po' lo prendi in giro, va anche bene, però se fai cose più pesanti non va bene, cioè sei tu deficiente, capito? Perché tu sai che lui è deficiente e lui ha i suoi limiti, e sei tu che fai queste cose qua, sei peggio di lui. E io ho capito la frase che mi ha raccontato Babbo, quella che si ricordava di più, che gli ho detto, perché mi fai piangere? Se per questo gli aveva fatto un panino, anzi c'era un tipo che lavorava in un panificio, gli aveva fatto un bel pisello fatto col panino, ma tutto bello, capito, che messo dentro accanto, spedito, sono andato a casa sua, gli hanno messo avanti, poi si è aperto la porta, è entrato a baracchino e beh, poi cosa, dove sono andato a aprire la porta, e cosa ti avevo dato? Un cazzo mi avevo regalato. Ho capito. Va bene, ma gli hanno fatto un po' scherzo. Sì, per scherzo, qui c'è il campanello, lo stecchino, se usava lo stecchino avevo messo un tronco d'albero. Va bene, riprendi master. Cappa, ho un dubbio, il microfono ha la batteria scarica, perché a volte premono un parte. Deve essere stanca questa batteria, d'altronde lui si fa fuori tre batterie a settimana, ciuccia più di una di quelle. Cosa stavo dicendo? Niente, povero Paoletto, ce la prendeva con noi lo Zuppi, 24-33-64, hai capito? Vabbè, dava sempre su di me, cioè io l'ho imparato a memoria a forza di sentirlo a lui, figurati. Oh, a proposito di batterie, meno male che oggi ne ho comprato diverse per tutti i microfoni che ho adesso, cioè da un microfono da tavolo che avevo si sono moltiplicati a 9 microfoni da tavolo. Ho saputo che avete fatto, anzi, ho parlato con Babbo. Mi ha detto che avete fatto incetta di microfoni, ne avete preso un po', soprattutto di un certo microfono di 70, tanto che gli ho detto, guarda, visto che ne devi fare almeno due, con i pezzi che avanzano, mettili insieme e poi vediamo, magari ne costruisco un altro, me lo rifaccio, ve lo compro, boh. Boh, adesso vediamo, perché praticamente ne funzionano tre e uno è una carcassa per ricambi. Li voglio vedere se li posso cablare per le stazioni base. Cappa, io per non sbagliare ho scelto uno standard, cioè questo baracco che sto usando adesso, e io ho fatto tutti i collegamenti con questo, altri apparati, con questa condizione di qua, capito? In maniera tale che si sposta il microfono da un apparato all'altro e sono tutti uguali. Ho capito. E adesso io lo so cosa volevo fare, visto che sto facendo prove, praticamente voglio attaccare il commutatore e farlo al contrario, un'antenna a tre apparati, perché mi stavo rompendo le scatole sempre a svitare il PL per metterlo a un altro apparato. Adesso lo stavo sistemando. Occhio, che si può fare, perché alcuni commutatori hanno delle capacità all'interno delle bobine. Fai attenzione, fallo aprire la parte e guarda se c'è roba dentro. Se c'è il solo commutatore con quattro cavi si può fare. Sì, l'hai già controllato, va bene. Perfetto, allora sì che ti metta comodo. Solo che devi stare attento, perché se premi la portante sull'apparato che non è selezionato rischi di fare danno. Lo so, lo puoi bruciare senza antenna. Esatto, e così bisogna anche vedere se poi quando il commutatore dà l'antenna all'apparato giusto, gli altri li mette in corso. Sarebbe meglio, perché sennò succede che praticamente quando tu metti il portante sull'apparecchio che stai usando, gli altri hanno un ingresso dell'antenna, hanno un ingresso sul ricevitore che è troppo alto, giustamente. Rischi di fare danno agli apparati attorno, capito? Ho capito, ma comunque ti volevo dire, adesso la voce è amplificata rispetto al palmare di più. Ma io la sento molto chiara, secondo me sì, ha anche un po' di amplificazione. È vero che qualche volta hai avuto la radio un po' bassa e poi tu col microfono amplificato inizi a allontanarti e come ti allontani un pochino alle mie orecchie sparisci, anche perché da me arrivi con un segnale altino ma non altissimo. Quando magari in ruota ce ne sono altri che hanno la radio un po' alta e che arrivano più o meno col tuo segnale, si sente che tu sei basso, capito? Quando stacchi la bocca da palmare. Adesso la radio ti sento benissimo, non fatta manco una parola. Ah, ok, meno male, perché almeno mi hanno dato un MB più 5 buono invece, invece che quello di Fusaro. Questo l'ho comprato in un giorno, mi è arrivato a casa e funziona benissimo e non hai nessun problema. Cappa, è Matte quella che ha detto che sta arrivando? E chi? Fusaro, vabbè, c'è quella ragazza, Marzia. Ah, Marzia. E ha detto che sì, sta arrivando, sta... Ha detto adesso te lo ordino, qui non l'ha neanche ordinato, pensa tu. Poverina, praticamente ha fatto tutto lì. Prima c'erano lì Antonello, la madre e la zia, erano in quattro. Adesso con il coronavirus, proprio stasera stavo parlando, mi ha detto che Antonello è in cassetta di reazione. Poi c'è Emanuele, ma non c'è sempre, cioè la maggior parte delle volte è sola, ha capito, deve fare tutto, deve rispondere al telefono, deve fare gli ordini, deve segnare gli ordini, i pezzi che mancano. Poi c'ha tre clienti al banco, magari il periodo è un po' così. Ho capito, vabbè, tanto adesso non ho fretta perché ci ho i microfoni a tavolo. Prima avevo fretta perché non ne avevo, adesso può fare anche con calma, ma non troppo con calma. No, guarda, Fusaro, già è serio come negozio, io problemi non ne ho mai avuto, ero molto più piccolo di te quando sono andato la prima volta. Sai che io sono entrato a Fusaro che avevo solo 4 anni. Ma... sei entrato a Fusaro per prendere qualcosa? Per prendere componenti per i miei circuiti. Sì, aggiungi uno 0 a quel 4. No, negativo, non sto scherzando. Ero così piccolo che mio padre, per vedere le cose che dovevo comprare, mi prendeva in braccio e mi alzava sul banco. Non sto scherzando, Lorica. Ah, interessante. Io non ci avrei mai pensato, a 4 anni ero ancora nel mondo delle favole. No, io a 4 anni invece ero già con le batterie in mano, facevo i circuitini, mettevo i fili nascosti così facevo accendere la lampadina dall'altra parte del tappeto, facevo tutte queste stronzate qua. Ho capito, io mi sono svegliato più o meno all'età solo di 5 anni che ho iniziato con chiodi a martello. Ecco, ognuno ha le sue pieghe, la piccola, hai visto? Anche mio figlio da piccolissimo voleva il martello. Io non ho sapito che sito è, però anche lui va a martello in mano. Io attaccavo chiodi per tutta casa. Beato tuo padre. C'è un cosa, c'è chi ti completa la USB antenna cavo magnette Mount Cobra Wiland FLRH, cazzo ne vuole, 72 euro di questo apparecchio qua. Ho proposto l'acquisto più 22,46 di spedizione, provenienza Stati Uniti. Mi hanno venduto 906 di questi qua. Povero di Carnio, l'ha schiacciato lei. C'è un sacco di baracchini in vendita, ragazzi. Questo vale quello che volte costa poco, 72,60 euro è buono. Il coso, il Cobra. Poi c'è la... un altro 307 euro, poi c'è il Galaxy DX959, 291, che li ho esauriti. Poi cosa c'è di buono? 172, 304, cazzo, che ci sono azzardi, cazzo, boh, fuori di testa, cazzo. Per il Covid-19, cazzo, ma come fai a comprare questo? A questo pezzo qui esorbitante, cazzo. Per carità, dai. Dice che cambia il microfono, questo non si vuole più accendere. Ma qui io lo cambio qua. Ma cos'è? Una cosa da tavolo o un palmare con la batteria? No, mi che si è acceso. È microfono a tavolo, un MT100 questo. Però sì, anche il LED è pazzo, c'è la luce pazza perché l'ho anche illuminata. Niente, un secondo e cambio il microfono, dai. Già ho capito qual è l'Intec. Antonello. Su qua stavo guardando un po' di Galaxy. Ah, ho capito. Ma Galaxy, tu parli più di stazioni base o di baracchini? Di tutto c'è, da baracchini sotto le base, 700 euro, ma questi sono scemi. Sono aumentati parecchio. Ci vuole il quadro di banda, ci vuole, perché è molto meglio, l'FT 857 D, quello già va bene. Un quadro di banda che fa tutto. Rientrato. Ricca, come mi senti così? Va sempre bene la modulazione. Non è merito dei microfoni, è merito dell'apparato. Un modulatore come questo non ce n'è, non ha riparo. Stavo dicendo alla fine che un giorno mi aveva dato una tavola perché avevo messo un chiodo su un mobile di noce appena comprato. Tuo padre è contento, no? Contentissimo. Mi stavo uscendo il fumo dalle orecchie per non picchiarmi. Ti credo. No, invece mio figlio avrebbe imparato da poco a stare in piedi. Vabbè, Alex è particolare, no? Ha seguito il solito iter, perciò non è che si è messo a cartonare e poi magari un pochino si è messo a stare in piedi barcollando. No, lui il giorno prima rimaneva fermo nel tappeto con i giocattoli, con la vecchia rimaneva, e il giorno dopo si è messo a correre. Comunque, visto che un po' si muoveva, visto che era piccolino e me lo potevo portare appresso, il giorno, la mattina prendevo la foto al lavoro, via. Arrivo in cantiere, ci avevo sempre in braccio, a un certo punto, ma cammina, sì, cammina un pochino. Non c'era molto disordine in cantiere, insomma, il cantiere si vedeva molto pulito. Come l'ho appoggiato per terra, a fianco c'erano le mazzette in fila nel muro appoggiate. Ha preso la mazzetta, subito. Ah, ho capito. Antonello, ti volevo dire, lo sai che ho trovato una super offerta di uno che vende uno stock di attrezzatura CB? Meglio così. Poi non ho spendo altri soldi. Ma così ti dici, mi bari. Io ho finito di comprare i baracchini, ho questo, la 87, ho l'FT 857D. Con le 4000, il tronato 4005, un portatile 40 canali, un FM500S e ciò. Non ne compro più baracchini, basta. Ho speso anche troppo. Ah, ho capito, non penso che sia per te allora, perché ne vuole tipo una ventina di roba di attrezzatura a 1000 euro. Sì, per carità, guarda. Lascia perdere. C'è anche cosa che sta vendendo la vedova di cose di Mario Planeta, 1000 euro, tutto quello che c'è, antenne, cavi, un apparecchio vecchio, degli alimentatori, eccetera, eccetera, ma io non ne piglio più. Basta una volta quello che c'è, usa mi riempio la casa dei baracchini e poi non usarli, capito? Quindi adesso io utilizzo questo qua, poi domani qua dice mio nipote, già l'hai sentito l'altro giorno, si ha passione, ti do il, come si chiama, il Colex 4000 e utilizza quello lui, la madre c'ha già il corso, il 3009, ha voglia baracchini, poi io mi ho comprato un omologato, il ZX140 della Polma, e quello lo userò qua a casa. Non spendo più soldi, preferisco guardare, divertirmi, la sera prendo, me ne esco, me ne vado a bere una birra al bar con gli amici, come si faceva prima, si passava l'ora, dato che sarà baracchino. Ah, ho capito. Sì, infatti Mirko non l'ho più sentito, solo una volta è entrato, non è più venuto. Sì, perché adesso si sta sistemando la bicicletta, si sta sistemando, hai capito? E quindi appena c'è la bicicletta pronta esce in giro in bicicletta a farsi la passeggiatina, mi attrae di bici. Ah, ho capito, sì. Io esco poco in bici, infatti, ormai mi sono attaccato alla radio e non riesco a staccarmi. Sì, vabbè, Mirko, c'è anche quell'aggeggio che metti sopra in piedi, hai capito, e cammini. E io se mi metto sopra quell'aggeggio mi ammazzo come minimo. Ho capito, riprendi master. Ho premuto il tasto sbagliato, ho premuto il tasto del microfono, ho fatto di premere per prendere di far male. Ero convinto di parlare ancora un po'. Cosa stavo dicendo? Innanzitutto, a Tonio ti ha detto una balla, mi capisco. Una balla di che cosa? E ti ha detto che c'è questo barattino qua, è zero, c'è l'altro barattino, è zero, c'è quest'altro, è zero, c'è il Polman, è zero, c'è Giovanna Cattornato, che guarda mio, 9, è vero, poi c'è il 4000, è vero, però c'è una palla su una parecchio di casa. E cioè, vabbè, il tornado ce l'ho anche io. Sull'FM500S, perché l'ha appena prestato e secondo me è già in polvere. Che disgraziato, già c'è l'FM500S, già non è in polvere ancora, tranquillo. Hai capito, ricordi? Si come la razza, no? Con una mezza antenna, un mezzo diventatore. Cioè, tu la sei baracchino, questo amico c'ha una mezza antenna messa dentro casa e la diventatore non si capisce. L'ultimo, il baracchino suo, di questo suo amico, ce l'ho io qua, e ha preso una cottura di alimentazione, non si dice più, ho dovuto cambiare il PLL, il modulatore, le cagliate finali, gli ho trovato oddio di aperti, resistenze bruciate, fumo dappertutto, e sicuramente per colpa dell'alimentatore. Faccio su pezzi, accanto a me l'ora, il suo preziosissimo FM500S che a lui piace un bello baracchino, perché si affeziona a questo qua. E io tutta la sera gli dico, ascoltami, domani mattina vai, dai questo mio Zodiac 40 canali e riprendi l'FM500S, non ti rompe quello, poi alla fine io voglio anche. Ho capito. No, ho capito però che baracchino è questo Expo. Aspetta, me lo cerco, la marca? Inter dovrebbe essere. Firenze, Modena, 500, Siracusa, FM500S. Ah, forse ho capito, aspetta che c'era un po' grigio quel baracchino. Stampa, poco fa c'è un amico su questo canale. Giuseppe, sì, dimmi Antonio, qua è a questo punto. Allora Giuseppe, nulla, vuoto, capito? Ho detto, mi sa che l'ha già rotto. Ah, tranquillo, già non l'ha rotto, tranquillo. Antonio, fidati di me, domani mattina ti do questo, se non ne hai altri, tipo questo. Ti do questo qua, glielo dai. Al limite si buca un finale, però quello lì, con tutte quella roba che c'è sopra, così com'è, che è preciso quell'apparecchio, che va bene, che altro non fa, farlo funzionare in condizioni di emergenza, capito? Ehi, ho capito qual è, sembra, vabbè, più o meno, si ricorda l'Alan. Campa l'Alan, fa uguale, non mi ricordo come si chiama l'Alan? 48 o 68. A lei lo stavo chiedendo, come si chiama la lunga FM500S? Il 48, 68 mi pare c'è 40 canali, questo è 34, vabbè, poi l'ho modificato io, 34 più 34, e in più c'è i canali 39, 40 e non mi ricordo cosa. Adesso ovviamente la parte, niente, secondo me comunque meglio per i 40 e 40. Da 4 canali, ci sono 9 sopra, sui sei di banda, ne hai 33 qua e 11 là, perché ne ha di alfa, che sono in mezzo, non capisco mai dove cazzo sei. Ah, ne ha 35 sotto e 35 normali, insomma. E in più, basta con la pinza, fai per la rileva, tira il canale 40. Se poi vuoi avere tutti gli altri canali, basta metterci il quarzo e tira 41, 42, 43, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a 60. Boh, io mi trovo sempre male che vada di 34 canali. Pure quei 23 almeno sei sicuro, perché dove andiamo? 24, no raga, rimaniamo a 23, perché sono i primi 23 normali, ma con 34 15 ci sono 9 canali sopra, 8 canali sotto, uno più, uno meno, premi il tasto, usi la pizza, o Antonio, non capisci mai dove cazzo sei, se non ti ha sentito sono lo stesso. Io la butto. io sapevo come usavo il mio, c'era anche per l'ascolto prima che ho avuto, però mi ricordo che l'avevo venduto tanto tempo fa, era bello, lo voleva Roberto Pina, lo voleva, c'era piazzata nell'ambulanza, nell'ultima ambulanza, figurati tu, con lineare attaccato, e tu immaginati, un giorno sono entrato nel furgone dell'Escomo e ci stava cercando, perché stavamo facendo abbattimento non so dove. E capito, ci hanno avvisato mica che stanno le furgoni vicino all'Escomo, ha detto la camionetta, noi siamo andati siamo usciti dalla parte dell'obiettorio, hai capito? Mentre loro sono andati dall'altra parte, abbiamo fregati. Oh, Antonello. Ehi. Ma questo Roberto Pinna per caso abitava nella zona dei Filighetti? No, via Montegrappa, lì a Coso, via Milano c'era il capannone, un capannone grande, capito? C'era l'elicottero di fratello, un elicottero giallo c'aveva. A parte tutte le ambulanze che c'erano una quindicina, tutte Peugeot, 2000 cilindrate. Perché forse era lui, non lo so, perché il cugino di Babbo si chiama Roberto Pinna ed era in CB. Sì, allora già è lui. C'è l'agenzia in via Montegrappa, c'è. Poi il fratello di Roberto, quello che chiamava l'elicottero, era morto, poi adesso è morto, poi era morto Antonio, l'altro fratello. È rimasto solamente lui, vivo, e la sorella. Ehi, ho capito, boh, devo chiederglielo a Babbo, che lui lo sa, visto che è il cugino, e gli chiedo anche informazioni, visto che io non so niente. Sì, come parente c'è anche Pinguino, Antonio Pinguino, figurati, che gli è cognato, in pratica. Ehi, mi sa che io vado, perché devo mettere a nanna i microfoni, devo portarli dentro, perché non li devo lasciare l'umidità e devo coprire tutto. E ci sentiamo domani, ciao Antonello e ciao Fabio, a domani e a tutti gli altri eventuali in ascolto. Ciao Alicante, ci sentiamo a domani, là. Buonanotte, buon tutto. Come fa? Adesso me ne vado anche io a nanna, che sono stanco sono. Già ci sentiamo domani mattina, ti faccio sapere qualcosa se l'FM500 si ha preso fuoco. Devo essere sempre io che mi occupo dei apparati, guarda, non ti dico. Vabbè, mi capisco, buona nonna, buon tutto. Buon risveglio per domani mattina, con il giornata alla grande. Non si dimentica la scuola, la radio è bella, bello tutto perché fai anche per gli sport, eccetera, però quindi lo che ho a scuola è più importante, perché se no non vai da nessuna parte. Abbiamo stato l'unico da te l'ho detto. Tranquillo, facile piacere pure quando sei Italia. Vabbè, niente, io guardo il singolo questo finale, che stiamo cambiando su questo palazzino, io faccio quello di qui. Ti volevo dire, domani mattina, no, ti svegli, chiamami, che io vado andando, arrivo lì in zona, ci prendiamo un caffè, ti lascio questo palazzo qua, e quando arriva lui, vai, e questo, che è meglio, che è meglio. Perché tu ancora ti spingi, io questo qua è perfetto, sinceramente non lo uso, è questo, poi vediamo se questo che sto facendo è bene, se lo ti dà, se lo utilizzato, se no secondo me non siamo ancora stati raggiunti. Io ho capito, vabbè, domani già poi glielo lo spiego, cioè non c'è problema. Ok, già ti chiamo io, mi attira. Ci sentiamo domani. Buonanotte, buon tutto, Fabio, buona ripresa qualcosa. Oh, yeah. Le gambe fanno male, ragazzi. Ok, allora mi attira. Buonanotte. Ciao, da domani. Ciao a tutti e vedi, oggi di buco. Ciao Fabio, a domani. Aspetta, adesso ho paura di una cosa. E di cosa hai paura? Ho perso la cuffietta dell'MC80, adesso la devo cercare. Non può essere in giro. Solo che se lascia la porta aperta si passa dei cani, magari tira macchina. No, è che sono in garage, quello del cane non c'è, adesso lo devo portare dentro i microfoni. E perché come mi sono appoggiato girandomi con la testa adesso lo cerco, va bene, questi anche per me, ciao a tutti, a domani, adesso vado in cerca non di propagazione ma della cuffietta. Scovata, ciao Antonello, ciao Fabio, 73 più 51.